manca, dovrebbe essere fatto, io ritengo sempre una discussione, magari adesso a freddo, però un po' più globale del convegno, perché insomma non mi va di sentire mezze frasi di di convegno non diciamo più, d'accordo, ci saremmo rotti le palle, no? Anche su questo, il fatto dei tre giorni dalla mattina alla notte inoltrata, no? Però cioè, questa semplice frase per me, non lo so, è una mezza frase che cioè, probabilmente significa tante altre cose dietro. Sul fatto di nuove aggregazioni, no? Di cui così, ho sentito te, Piero, ho sentito. Io penso questo, che una maniera me la sento, ed era stata anche ventilata, anche se probabilmente in maniera completamente differente da quello che già da allora avevo in testa, e adesso però lo ripeto esattamente come ce l'ho di nuovo in testa io. Cioè, ed è l'idea del seminario. Inteso non come qualcosa di esterno, qualcosa di dunque la fantascienza nacque il e così via. Però quello di chiamare a raccolta dei temi che potrebbero pure essere, secondo me, i temi passati della nostra rivista, perché secondo me, proprio per non rischiare la fossilizzazione, sui bambini abbiamo parlato, no? Per cui basta, ipse dicere così. Sui romboni abbiamo parlato, no? Adesso abbiamo parlato dell'utopia, beh, vabbè, c'è molto altro da dire, però vabbè, così via, no? Abbiamo fossilizzato, abbiamo creato dei cristallini, no? Non se ne parla più di questo. Potrebbe essere anche su temi nuovi, oppure sui temi futuri, no? Comunque sì, che io vedrei questo, brutta parola, seminario, comunque sia questa discussione, magari finalizzate a tappe, proprio come possibilità di discussione interna al collettivo, ma specialmente come possibilità di discussione anche esterna, cioè la persona, secondo me, che dice ma di che cosa parlare ogni tanto, no? Capita qualcuno, o che non ha voglia di venire, che lo sai benissimo che non mi interessa, che però magari ti va così, non c'è un cazzo da fare, ma poi che cosa parlate stasera, no? Io sempre, ma così si vede, sai, l'ultima riunione prima dell'estate e così via, no? Sia perché, cioè, secondo me non è questo il modo migliore, oltretutto anche se conoscessi una persona che al limite penserei che potrebbe essere interessata, se la faccio venire, la faccio venire con il preciso scopo di buttarla in mezzo e dico, tieni, muove, insomma, impara a notare. Cioè, lui in una sera deve decidere che cazzo è, deve farsi tutte le impressioni, vere o false che sia, e poi continuare a decidere se continuare a venire o meno. Un'idea di discussione su alcuni temi, che tutto sommato potrebbe essere, secondo me, fatta, potrebbe essere, secondo me, invece un avvio migliore anche di ridefinizione del collettivo e di ridefinizione di temi. Questo del seminario, così, che era partita completamente in modo differente, però io, ecco, appunto, non la vedrei come seminario tenuta da gente esperta o da gente comunque sia fuori del collettivo, più un qualche cosa di interno, magari più a livello di tavola rotonda, tavola aperta, discussione, qualcosa del genere, in cui poi puoi invitare, così, o puoi pubblicizzare su un tema specifico gente che sei sicuro che può essere interessata a quel determinato argomento. È da stabilire una cosa, cioè se l'ambiente da cui scaturita l'utopia sia o meno un ambiente di appassionati di fantascienza oppure no, perché se è un ambiente di appassionati di fantascienza dobbiamo decidere se accettare o meno questa paternità poco gradita. Invece, mi sembra un falso problema a questo punto, dopo quello che ha detto lui, cioè non lo so, mi sembra che l'impressione più chiara l'ha data lui e anche non poi so Renato, la ripresa, insomma. Cioè non è, cioè capito, la differenza è tra, diciamo, tra fanzine di sinistra o, chiamiamola come dice lui, rivista politica di fantascienza, ecco. grosso modo questa è stata fin diciamo dall'inizio, poi da tantissimi cambiamenti, però questa è stata la diciamo seconda cosa. Poi che tu voglia, adesso mi sembra che quella discussione che abbiamo fatto la volta scorsa su fandom, non fandom, sia un po' superata, insomma, sì. Cioè storicamente il fandom ormai siamo tutti d'accordo, è quello dico che è. Certo, è una rivista che è nata da gente che era appassionata di fantascienza, questo è ovvio, però fin dall'inizio ha avuto una caratterizzazione estranea, completamente opposta, diversa, con un altro linguaggio, su un altro piano, a qualunque esperienza di fandom italiano e aggiungiamo pure americano per quello che noi ne sappiamo, anche se negli ultimi tempi sappiamo che ci sono alcune riviste negli Stati Uniti che potrebbero essere classificate a metà strada, diciamo, tra il fandom tradizionale e la nostra esperienza. Ho citato Quark di Leni e potrei citare anche queste altre, diciamo, rivistine mezze fanzine, per esempio, di donne femministe, eccetera, no? Ecco, però quella è una cosa diversa, che comunque Quark era una cosa che aveva larghi settori di critica accademica, cosa che l'ambigotopia nei primi tempi non aveva per nulla e oggi ha ancora molto parzialmente, anche se alcune cose in più ci sono, ma non, ormai non mi sembra sia questo problema, va bene. Però se il fandom italiano avesse lo stesso tipo di influenza del fandom americano... Ah, sarebbe una cosa diversa, cioè, no, sono d'accordo con te, questo l'ho detto anche dico l'altra volta, cioè, sarebbe una cosa diversa, infatti non a caso la scelta di Leni probabilmente è stata giusta, no? Credo, dal suo punto di vista, negli anni, quando l'ha fatto, nel 70, 71, di quando è Quark, ti ricordi tu? Vabbè, insomma, comunque... ora ha chiuso, diciamo, però è stato no, non il Quark schifetta di Marco Gaffo, ma il Quark di Vileni, che fra l'altro appunto usurpa un nome. Sì, ma infatti questa è un'altra questione. No, io vabbè, adesso fra l'altro io sarei comunque ora favorevole sulla utopia, ho di nuovo cambiato idea per quanto riguarda il libro, cioè mentre in un primo tempo non ero favorevole a fare un pezzo, una pellice separata, adesso sono favorevole di nuovo, insomma. Cioè penso che vada fatta. Sì, separata sull'ambito. Cosa? No, io la farei invece adesso. Cioè, dico, no, sì, la farei sì, perché è un fatto interessante per la fantascienza italiana, cazzo, e va trattata in modo, esatto, evidentemente, a parte quella che tu lo vedi, che ho, no, ma diverso, cioè, più mio, più ampio. Cioè, una votazione proprio fatta una cosa. E dico che sarei a questo punto d'accordo che la facesse al limite qualcuno che è stato dentro fin dall'inizio e ha seguito tutta la storia bene, magari anche di quelli che attualmente non fanno il libro, il che significa ovviamente che mi sarebbe anche bene che la facesse Giancarlo. No, perché secondo me lui l'eleganza. Cazzo, no, c'ha le idee, ma no, perché cioè lui sa bene tutta la roba, cioè potrebbe essere anche Giuliano, però Giuliano dov'è Giuliano? Già vuole ridimensionare la sua di appendice e farla in modo, cioè a me non piace neanche tanto, comunque vuol dire che non c'ha tempo di fare problemi. Comunque sì. A questo punto Piero non mi sembra tanto quella, cioè ok, va bene, ci siamo vagamente chiariti, credo, non so, spero almeno. Sì, io adesso ne riparlavo, anche se il problema chiaramente adesso è diverso, è più grosso, eccetera. Perché guardavo il lato pratico, dobbiamo fare di quella roba lì. Vabbè, io non lo so, io adesso, vabbè, se tu alla fine della discussione, se tu, Silvano, ma tu perché sei qua l'ultimo, non c'è. Se vi viene qualche idea anche per modificare, ma voglio dire adesso, non perché l'ho detto io, cioè perché dico questa discussione ti ha per esempio chiarito meglio alcune idee anche rispetto ai limiti di altre riviste di fantascienza, bene, ok, se no io non ho problemi, cioè io dico che continuo ad avere un po' di... io voglio dire, io l'avrei scritta in modo diverso, ecco, evidentemente, ma questo è ovvio, però sì. Dico comunque, se questa discussione non ti modifica delle idee, secondo me si lascia così com'è tutto, diciamo, il resto e si toglie solo il pezzo ambiguo, voglio dire, non c'è nessun problema, compare di firmata, non compare mica col mio nome sotto, quindi sì. non mi sento coinvolto al punto tale da, se queste sono posizioni che sono presenti, in posizioni che sono presenti dentro l'ambigua, non mi faccio scandalo perché non ho mai avuto, spero questo mi date atto, spero, dico, nessuna posizione monolitica dell'ambitutopia, per cui o tutti la pensano nello stesso modo oppure no. No, quindi, appunto, questo era uno dei problemi che, se fosse venuto fuori questa sera, sarebbe stato proprio da sviscerare, no? Cioè, se qualcuno avesse avuto intenzione di presentare una visione monolitica. Ma non lo so, io che pare che sia più di altri sul banco degli accusati, non so, ma dichiaro, non lo so, poi io, può darsi che nella pratica poi smentisca queste mie posizioni teoriche, ma certo, dico quello che penso su impostazioni diverse dalle mie. Dico anche però sinceramente che tante volte mi pesa il fatto di cogliere dei dissensi rispetto a cose che dico io e però di non sentirli mai esplicitati, cioè di cogliere nell'aria, cioè io sarei molto più contento, non so, dico anche con te certe volte, o con Silvano o con qualcheduno, diciamo di avere scambi di idee proprio molto più espliciti, voglio dire, no? Con, sì, beh, con, io già venerdì ho deciso di evitare di fare giri di parole, sì, eccetera, sì, ma di mettere, infatti, sul tappeto la questione. Fatto venerdì, certo, i tempi di cui lavorare quando sono? Tempi di cui Bisogna farli in frettissima, perché sì, siamo molto indietro e verso la metà del mese. No, io adesso ti dirò una cosa. Quando parti? Sul 15. Va bene, non puoi farlo prima? Un po' di casino. Dove vai? Ma non ho deciso, in Francia, questo sì, prima ho detto Bretagna, ma poi invece ne ho parlato, in Francia, però non so fino a che punto arrivo, perché arrivare in Bretagna ho l'impressione che sia un po' lunga, ragazzi. E allora, non lo so, vado in Francia, per adesso vado a Grenoble, poi vediamo. Grenoble conosco bene, ho una vita. Va bene, comunque. Chiuso adesso. Beh, riesci a farla o meno? Senti, dai, io comunque, scusate, propongo che se ne parli magari un attimo dopo in appendice, perché non lo so se questa discussione è più. Quante cartelle dovrebbe essere? Quello che riesci, 10 al massimo. Cioè, se tu riesci a stringere una cosa che in questo spazio dia un'idea alla gente del perché nasce questa rivista, e poi anche delle varie fasi, delle varie cose che ha attraversato, diciamo, utilizzando tutto, insomma, no? Ma sentite, se io lo potrei spiegare a qualcuno che l'ha detto a dire ora, se no io mi sono venuto in mente delle cose e la risposta su se pensavo di dire la risposta sul problema teorico, diciamo, quello che è reale, però quello se è fantastico, può essere un sì, sì, sì, sì, sì. Anche delle cose da dire. Io una cosa solo ancora da dire, mi è venuto in mente che prima Giancarlo ha detto che lui aveva delle cose da scrivere, eccetera, che usava il mezzo che aveva, cioè l'ambigotopia. Però mi consta che tu, più che recensioni cinematografiche, non hai scritto. Perché non hai mai esplicitato meglio il tuo pensiero con articoli invece più... Qua c'è un tempo personale, questione di tempo, solo, essenzialmente. Però a me pare che non abbia parte del discorso. Certo, che mi sono isolato da 4 mesi per il... No, ma lascia perdere 4 mesi, anche quando si parlava del primo o secondo numero dell'anno scorso. Ho fatto un articolo, parlo degli articoli sullo Spirit, per esempio. Certo, abbiamo fatto delle cose. No, secondo anche, ho fatto un altro articolo. È da quest'anno, è dalla nuova serie che non a caso ha in effetti coinciso con quel suo impegno. D'altra parte un po'. Mi era sfuggito. No, solo fuori dalle diplomazie, è solo quello. Non ho paura che nessuno mi bacia gli articoli, non è questo, non è un cazzo. No, scusa, io mi ero chiesto. Mi ero chiesto fin da quando abbiamo deciso di fare una nuova serie. No. Perché eri così restio ad entrare in redazione? Che mi ricordo che ti ha pregato Antonio di entrare in redazione, dicendo che non aveva piacere. Dicevo allora e anche la seconda volta, non sono poi più entrato in redazione per questioni di tempo. Infatti, quando è stata la restituzione della redazione, ho detto, no? Io non entro, non voglio entrare perché uno preferiva occuparmi di storia cinematografica, se ti ricordi, poi c'era la prospettiva di Sesto, Carnuta, eccetera, eccetera. E due, perché sapevo che c'era questa storia del contratto che mi avrebbe fatto andare a Roma, mi avrebbe fatto fare il pirla, e infatti lo sto facendo. Eri l'intervista d'ordine che picchiava quelli dell'altra? No, era uno dei quattro pirla che stavano davanti a Palazzo Chigi. Che le prendeva. Invece di fare, no. Ho scoperto che l'altro centro non siamo chimici. Abbiamo fatto servizio d'ordine con gli autori. Noi siamo chimici, non sentiamo un cazzo che mi chiamano. Ma peggio. Quelli della quarta. Peggio, l'altro spontaneamente. Sono andati con quelli dell'MLS e del PC a... A meno che sai che ne hanno lasciati due per terra, stronca, dai, dai, però, non litighiamo, non litighiamo perché ho parlato con gente non autonoma che l'ha vista le cose, quindi guarda, il giudizio politico se autonomi è un conto, ma quella cosa lì, guarda, è stata di una, guarda, questi qua dell'MLS, guarda, sono delle robe che... Sono d'accordo! Dai, è così qua, veramente bruttissima. Cancelliere De Penna. Cioè, no, voglio dire, e lì fra gli autonomi, obiettivamente, cioè volevano solo entrare dentro la corte e basta, insomma. Certo che sono andati... Oltre a fare un po' di casino. Vabbè, ma porco Dio, ma è ovvio, c'è delle posizioni politiche, va bene. Ho fatto due articoli per le altre fans, ti ricordi? È uno carino sulla festa, che lui mi è venuto abbastanza bene per un'altra fan, ti ricordi? No, vabbè, io volevo... siccome credo che la cosa, cioè questa domanda che ha detto, che ha posto Giancarlo, è una delle cose più importanti di fatto, no? Cioè, ed è quella su cui secondo me c'è, allora io dico subito una cosa, diciamo, generale, che il progetto dell'ambigutopia e l'ipotesi dell'ambigutopia, secondo me, è di fatto cambiata dal 78 al 79, senza che noi ne abbiamo avuto una chiara diciamo, coscienza collettiva, forse alcuni individualmente ce l'hanno avuta, io non chiara, devo dire, e comunque senza che ne abbiamo discusso. Però a posteriori il cambiamento c'è, non c'è alcun dubbio. E questo cambiamento qual è? Adesso in termini diciamo fenomenici è anche chiaro da cogliere, no? Il punto di svolta è la festa, prima della anche se non è chiarissimo in termini così cronologici, però quello lì è il punto di fatto. Il mutamento, sono due mutamenti più chiari secondo me, uno è questo. Prima della festa si parla e si centra il discorso, uno dei caposali del discorso dell'ambigua è quello che si chiamava la cosiddetta pratica dell'utopia, diciamo, e che in parte che è collegato largamente con quello che diceva prima Giancarlo, cioè sulla possibilità di fruire collettivamente in modo diverso il fantastico, eccetera, eccetera, di cui alla festa abbiamo fatto un primo tentativo. Dopo la festa, secondo me, questo tema di fatto scompare dal dibattito del collettivo, dalla, diciamo, rivista, tranne alcuni omaggi formali, dico, se volete, come per esempio quelli che erano contenuti nel documento introduttivo per il convegno, c'erano alcuni omaggi a questa cosa, però tutto sommato credo un po', pensandoci dopo, dico, l'avevo scritto io, ma tutto sommato un po' superficiali e un po' di facciata, insomma, no? Perché di fatto cominciava a venire fuori una cosa in parte diversa. Seconda cosa, l'ambigutopia cambia un po' carattere, insomma, la rivista, no? Ora vabbè, poi questa, le cose forse sono molto o comunque un po' più complesse, no? Però io adesso colgo questi due punti, poi altri potranno, dico, precisarne altro, insomma, io adesso dico in modo un po' schematico questi due. Dall'altra parte la rivista si trasforma da non una fanzine, ma da una rivista così, diciamo, Si potrebbe anche usare in fondo la cosa che ha usato Piero, cioè che passa, vabbè, non da fanzine, ma da rivista auto, diciamo, gestita. Secondo me, devo dire, insomma, c'è un giudizio che do io sui primi 3-4 numeri, non molto riflessa, non molto, diciamo, con ancora con poche capacità di, diciamo, di riflessione su se stessa, no? Ad un tentativo invece di affermarsi, secondo me, devo dire, come rivista culturale collegata con esperienze di movimento, che tratta di fantascienza e di altre cose, diciamo, fantastiche, che cerca di collegare varie cose, ma come rivista prevalentemente culturale, cioè non più come erano i primi 3-4 numeri, come tentativo, come strumento primario di aggregazione di qualche cosa, insomma, di aggregazione di gente, eccetera, ma passa ad essere una rivista culturale. Allora, secondo me questa cosa è collegata, al di là del fatto, perché poi, vabbè, probabilmente, adesso dico fuori dai denti quello che è, molti compagni hanno visto nel mio ingresso nel collettivo, se non la causa, però perlomeno un indice macroscopico di questo fatto, ecco. Prima si era in un certo gruppo, discutevamo tra noi in un certo modo, eccetera, eccetera. Adesso arriva della gente, diciamo, esterna, fra cui per caso viene fuori sto qua che dice delle cose, che si mette a scrivere lui, che fa lui, e la cosa cambia, no? Ora, io dico, non lo so, può anche darsi poi, al di là delle simpatie o antipatie che possono avere per me o che io posso avere per altri, insomma, no? Al di là di questo, voglio dire, no? E del mio stile oratorio da, appunto, seminario, da assemblea o da cose di questo genere, in realtà secondo me ci sono dei fatti più di fondo. I fatti più di fondo sono due, li dico come li vedo io. Uno è una cosa a cui già accennavo l'altra sera, e sono le condizioni che in Italia mutano politicamente, socialmente, eccetera, dal 77 al 78, di fatto. Noi cominciamo una cosa alla fine del 77, arriviamo sull'onda lunga del 77 alla festa, che è settembre 78, però non è quello che è, e nel 79, secondo me, inevitabilmente subiamo un cambiamento di, diciamo, situazione. Come titolo del capitolo si potrebbe dare crisi del movimento del 77, di fatto, perché questa cosa è uscita, al di là di come l'hanno fatta uscire i singoli compagni, ma era collegata al clima che si era creato in Italia col movimento del 77. Va in crisi questo movimento, vanno in crisi ipotesi politiche, vanno in crisi un casino di cose, è ovvio che, infatti, non a caso anche qui dentro poi fra noi si ripropongono oggi, in termini, se volete, ridicoli, banalizzati, ultramediati, però in gran parte